via, senza guardarsi indietro mai. Questo viaggio è troppo lungo, chissà se ritornerai. Mai mai non girarti indietro mai, mai mai che la strada è lunga sai. Questo treno va veloce lasciando tutto dietro sé, svanisce tutto nel momento che lasci la tua città con il saggio che è stato, i tuoi ricordi e quel viale avverato, con quel mare che culla i pensieri, sospiri d'amore sotto un cielo blu, orizzonti senza confine, senza metà, dove ti perdi nella sua immensità. Musica del mare nella loro libertà. Prendere un treno e andare via senza guardarsi indietro mai, senza guardarsi indietro mai, senza avere le certezze di ciò che troverai. Vai vai, non arrenderti mai, vai vai, chi se la strada giusta sai. Qualcosa già ti manca, è un uragano dentro te, lo capirai nel momento che lasci la tua città, viaggio senza ritorno, con il cuore che sussulta il suo ricordo, la nostalgia che mostra i tuoi occhi, i momenti felici della tua gioventù. Cielo.